Vendo tutto di Matteo Caccia. Prenotate una stanza, portate i vostri amici, preparate le valigie e settate il vostro navigatore satellitare. Venerdì e sabato siamo a Riva del Garda perché io continuo a vendere tutto, ma questa volta lo fanno anche 5 di voi. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo l'automobile. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese, imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Perché quando uno dice perché vendi tutto, ogni tanto sfugge, no? Vendo tutto per i motivi che avete sentito. Perché ho una lista di desideri da realizzare. E quindi ho bisogno di soldi per realizzarla. Uno l'ho già fatto, mi sono lanciato col paracadute ed è andata come è andata. L'altra è al terzo posto, mi pare, della lista, che è scalare il Monte Rosa. Questa sembra l'Himalaya più del Monte Rosa. Però è accaduto che sin da quando ho detto che volevo farlo, Tiziano ha cominciato a dirmi: andiamo insieme allora, visto che Tiziano va spesso in montagna. Mi ha suggerito, invece che andare diretti sul Monte Rosa, visto che la tua esperienza è andare in Val d'Otro a mangiare la polenta a mezz'ora di camminata, magari facciamo qualche vetta più bassa. Per cui abbiamo deciso, andiamo sul Gran Paradiso. Sul profilo Facebook c'è già tutto, ci sono le foto e ci sono i video. Ovviamente ci siamo preparati mesi prima, abbiamo deciso cosa fare, come andare e soprattutto ci siamo presi una guida. Pronto Stefano? Pronto, ciao. Ciao Stefano, come stai? Bene, tu come stai? Bene. Allora, Stefano Perrone è la guida che ha portato me e Tiziano Bonini in cima al Gran Paradiso. Ora, forse dire proprio in cima non è corretto, giusto Stefano? E abbiamo provato ad arrivare in cima. Comunque il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. Bravo, 3.800 metri. Bravo, l'avevamo preparato bene, Stefano. Male. Allora, racconto velocemente cosa è successo per quelli che non erano con noi ieri, cioè praticamente nessuno. Allora, siamo arrivati sabato pomeriggio, io e Tiziano abbiamo incontrato Stefano e siamo saliti a un primo rifugio, che era più o meno, che rifugio è, che quota è, Stefano? Il rifugio Chabot è 2740 metri. Quindi noi partiti da 1700, comunque sto dislivello di 1000 metri ce l'eravamo fatto. Poi cosa è successo? Sì. Che abbiamo dormito al rifugio, ci siamo svegliati alle 4:30, alle 5:30 siamo partiti e il nostro obiettivo era la cima del Gran Paradiso. Quota, Stefano? 4.061. Ok, si parte col buio, è uno spettacolo meraviglioso, ci sono persone davanti a noi. Stefano giustamente dice: facciamo partire i francesi, così lasciano le tracce nella neve e noi facciamo meno fatica. Noi facciamo partire i francesi, però il problema è che dopo un paio d'ore il sottoscritto ha una crisi, Stefano? Ma sì, è un po' di mal di montagna, però ci abbiamo provato, siamo partiti con un passo regolare e accademico e siamo arrivati fino a dove siamo arrivati. Giusto, passo accademico mi è piaciuto, se non fosse che a un certo punto è successa questa cosa qui. Di fatto non ce l'abbiamo fatta. Dall'altra vetta siamo a 261 metri dalla seconda vetta. Prima vetta è stata raggiunta. Sì, guardami però, sembro uscito dalla crisi del 29. Insomma, fondamentalmente mi è venuto quello che Stefano ha chiamato mal di montagna, quindi mi girava la testa da morire, sudavo come un vitello e soprattutto avevo dei conati di vomito e quindi quando ho detto a te e a Tiziano vedo le stelline, lì vi ho visti un po' preoccupati. Sì, eravamo un attimo preoccupati visto il punto dove eravamo e quindi abbiamo deciso di ripiegare sulla discesa e sull'altro versante. E lì, sulla discesa e sull'altro versante, quando ormai praticamente avevo capito che il peggio era passato, Stefano mi ha insegnato una cosa magnifica, che diciamo è, dopo aver visto il Gran Paradiso a 200 metri da sotto purtroppo e non da sopra, ho scoperto la discesa himalayana. Vado? Vai, vai. Discesa himalayana. Stefano, lo dici tu che cos'è la discesa himalayana? La discesa himalayana praticamente consiste nel coricarsi, diciamo così, sulla neve e lasciarsi scivolare lungo il pendio, trattenendo la scivolata con la picozza. Ma diciamo, comunque a modo suo è una discesa ortodossa, giusto? Perché se è timbrata dagli himalayani. Sì, sì, ma è usata dalle persone che vanno in Himalaya e poi stanche cercano di scendere utilizzando, diciamo, meno fatica possibile. Senti Stefano, chiudiamo così. È vero, non ho raggiunto il Gran Paradiso, però avendo fatto tipo la mia escursione nei miei primi 35 anni di vita più lunga, durava 35 minuti, avendo fatto 2000 metri di dislivello a salire e a scendere in 2 giorni, comunque il mio obiettivo a modo mio l'ho raggiunto. Beh, ovvio che l'hai raggiunto. E poi comunque ti do 10 lode per la discesa himalayana. Stefano, ci sentiamo a breve o magari l'anno prossimo per il Monte Rosa. Ok, perfetto. Ciao, un abbraccio, grazie Stefano. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Insomma, è questo quello che è successo ieri. Sì, ieri mattina all'alba. Se volete vedere i video e le foto, effettivamente i video è più facile perché basta vedere la mia faccia e si capisce in che stato era. Facebook è Matteo Caccia Vendo Tutto. Ma rimanete lì perché oggi è lunedì 14 giugno. Mancano 5 giorni a Riva del Garda, mancano 5 giorni al finale dei radioincontri, del concorso Vendo Anch'io, e quindi 5 giorni a radioincontri di Riva del Garda. E a breve, tra pochi minuti, daremo in diretta i 5 finalisti del concorso Vendo Anch'io. Andiamo all'oggetto di oggi, perché non è un oggetto qualunque. Prima anche Simone Spezzi è entrato dicendo: ma vendi la macchina? Sì, oggi vendo la macchina. Per vederla, radio24.it, per sentire la tua storia, eccola qua. L'automobile. Marca Audi, modello A2. Anno di fabbricazione 2001, cilindrata 1.400 TDI, alimentazione a gasolio 115.000 km. Colore grigio metallizzato, dotata di ABS, servosterzo, airbag guida e passeggero, cristalli anteriori elettrici, climatizzatore automatico, autoradio con CD. Gomme al 70%, taglia andata fino al settembre 2011, usata ma in buone condizioni. Ottima per sentirsi una facoltosa signora del Nord-Est o per gli amanti delle cose belle. Valore commerciale 6.500 euro, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Io sono per le auto usate. Trovo che comprare una macchina nuova sia veramente un'assurdità. Cioè, un secondo dopo che hai firmato l'assegno dal concessionario, l'auto vale il 25% in meno di quello che l'hai pagata quando era in bella mostra nella vetrina dell'autosalone. Ammetto anche di essere stupito dalla quantità di pubblicità delle automobili che si vedono sulle riviste o in televisione. Cioè, praticamente, secondo i produttori di auto, uno dovrebbe comprare una macchina nuova ogni 6 mesi per stare dietro ai loro modelli. Questa è la seconda volta che vendo un'auto in vita mia. E forse prima di iniziare il programma l'auto era l'unica cosa che avevo già venduto da solo per conto mio. La mia vecchia macchina me l'aveva passata mio padre, l'avevo usata per 5 anni. Era una Mercedes classe A, una di quelle auto di piccola taglia che le grandi case automobilistiche si mettono a produrre per cercare nuovi acquirenti, no? Spesso donne. Quando decisi di venderla non era proprio in ottime condizioni, il tettuccio apribile non s'apriva più, gli specchietti retrovisori erano rotti, le sospensioni da rifare, pure i freni non erano perfetti. Andai da un concessionario e gli chiesi quanto valeva la mia auto, nel caso ne avessi comprata un'altra però usata, ovviamente. Il proprietario del concessionario era un signore di circa 60 anni, pesava qualcosa tipo 100 kg e aveva i capelli rossicci con un riporto che faceva invidia a Pippo Baudo. Già quando gli parlai di vendere un usato per comprare un usato, lui fece un sospiro come se per lui fosse una perdita di tempo. Poi quando gli dissi che macchina avevo io, lui bofonchiò che quel modello era difficilissimo da vendere. Poi uscì con me nel parcheggio e cominciò a girarla intorno, come un patologo che esamina un cadavere. Aprì la portiera, si mise al volante e accese il motore, per sentire il rumore che faceva. Io non so perché, ma ero molto agitato. Era la prima volta che chiedevo di valutare un mio oggetto, e vedere sto tizio che osservava e analizzava ogni dettaglio della mia macchina mi dava la sensazione che stesse valutando un po' anche me. Come se, notando i graffi sulla carrozzeria oppure un difetto alla tappezzeria, mettesse a nudo la mia scarsa cura nel tenere le cose, la mia incapacità nel gestire il mezzo. Ma il momento più difficile però arrivò quando mi disse quanto, secondo lui, valeva la mia vecchia auto. 800 euro. Per me fu come un 4 in pagella. Voglio dire, io non sono un venditore d'auto e quindi non ne so molto, però avevo letto i giornali specializzati, mi ero fatto un'idea, avevo guardato su internet il valore di quel modello. La cifra si aggirava tra i 2 e i 3.000 euro. E poi soprattutto quella era la mia macchina. C'ero andato ovunque, ci avevo dormito dentro, ci avevo fornicato, ero andato in vacanza, mi era sempre stata fedele. Non poteva valere quanto un cellulare. Mi sentii offeso, lo salutai e me ne andai, deciso a tenermela. Un paio di settimane dopo, tornando a Milano, dopo un fine settimana al mare, mi lasciò a piedi in una piazzola di sosta. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. L'esperienza di vendita della mia auto mi ha insegnato un paio di cose. La prima è che il valore che diamo ai nostri oggetti è sempre più alto di quello che dà il mercato. La seconda è non fidarsi mai troppo dei venditori d'auto. Cioè, voglio dire, non che siano in malafede, Però secondo me se parti con un briciolo di diffidenza è sempre meglio. Un po' come quando hai a che fare con un agente immobiliare. Alla fine la mia vecchia classe A l'ho venduta per 2.000 euro a un ragazzo del Camerun che vive a Milano. E gli ho fatto pure lo sconto, perché sosteneva di conoscere Eto, di essere suo amico, e mi diceva che me l'avrebbe fatto conoscere. Non ho mai più visto ovviamente né lui né Eto, ma almeno ho preso più del doppio di quello che mi aveva proposto il concessionario. Ora, una volta venduta quella, toccava comprarne una nuova, o meglio, usata, che però durasse per altri 5-6 anni. Io non avevo intenzione di spendere più di 5-6 mila euro, e sapevo che macchina mi piaceva. Qualche anno prima una casa tedesca aveva messo sul mercato un'auto piccola e leggera, una macchina con una forma squadrata ma aerodinamica, una specie di piccola navicella spaziale, e io me ne ero innamorato. Ovviamente come tutte le auto tedesche costava uno sproposito e io non potevo permettermela, però adesso che non era più in produzione se ne potevano trovare parecchie usate. L'auto è un Audi A2, in fondo piuttosto simile a quella prima, ma che ci volete fare, non ho gusti così volubili. Mi mise a cercare informazioni e quotazioni. C'è un periodo nella vita di un uomo, anche delle donne, ma soprattutto in un uomo, in cui si compra quattro ruote, tutti i giorni, tutti i mesi, e per un paio di mesi si sa tutto a proposito di cilindrate, consumi e prezzi delle auto. Come sempre accade quando inizi a interessarti ad un particolare modello di auto, poi ti sembra di vederla dappertutto, in giro. Nella tua vita ce ne sono già un paio parcheggiate vicino a casa tua, al semaforo in un incrocio in continuazione, ti sembra sempre più bella e più desiderabile. Quasi che ti stupisci di non essertene accorto prima che quell'auto fosse così straordinaria. Dati i miei pregiudizi nei confronti dei concessionari, cercai annunci di privati e andai a vederne 5 modelli. Una bianca, una nera e 3 grigie. Grigie metallizzate per esattezza, perché non so se ve ne siete accorti, ma il 70% delle auto che circolano sulle strade sono grigie metallizzate. I proprietari delle 5 auto furono molto gentili, molto zelanti nel raccontarmi le meraviglie di quell'auto, no? La carrozzeria in alluminio, i bassi consumi, la comodità, la qualità Audi. Qualcuno più furbo mi mostrò anche qualche piccolo difetto, tipo un segno sulla portiera o il cruscotto rigato, come a dire: guarda, se ti faccio vedere un difetto vuol dire che sono una persona seria, no? Sono una persona affidabile. Eppure non so perché, ma io non riuscivo a lasciarmi andare. Cioè, da una parte sentivo il bisogno di farmi convincere e di credere alle parole di quel tizio che mi stava davanti, dall'altra però temevo che sotto il cofano fosse nascosta qualche sorpresa e che tempo un mese o due avrei dovuto spendere 3.000 euro per rimetterla a posto. Alla fine ovviamente cedetti ed entrai in un concessionario di auto usate. Trovai un modello del 2001. Aveva le gomme nuove, la radio col CD ed era garantita per un anno. Ma soprattutto, era grigia metallizzata. Staccai l'assegno e dopo 3 giorni ero sulla mia auto nuova, ma usata, e mi sentivo un signore. E credetemi, guardate, non fosse che vendo tutto, io questa macchina non la venderei. È una gran bella macchina, ha la carrozzeria in alluminio, bassi consumi, comodità e tutta la qualità Audi. Sì, vabbè, ha un segno sulla portiera e il cruscotto è rigato, ma per il resto è perfetta, fidatevi di me. Il suo valore sul mercato è di 6.500 euro, la base d'asta sono i soliti 99 centesimi. Voi andate a vedere la macchina e rimanete lì, che dopo il brano vi do i 5 finalisti di Vendo Anch'io. You and I buy star maps and ding-dong digital evangelist. It's only been a week, but I know that you are mine to keep. You are a radar detector. I drive 1,000 miles an hour. Ma stai a casa, zolla di montagna, mi scrivono. Chi è qualche alpinista che ha sentito solo il fiatone? Vabbè, ma come suda un vitello, mi chiedono? Niente, un vitello suda tanto, suda quanto ho sudato io ieri per raggiungere il Gran Paradiso, che poi non abbiamo raggiunto. Ma sono le 16.25 e manca pochissimo alla chiusura, ma soprattutto mancano 5 giorni a Riva del Garda. Noi venerdì siamo là in diretta alle 16 e sabato sera alle 22 in Piazza delle Erbe si conclude il concorso Vendo Anch'io con una grande serata. Che cos'è stato il concorso Vendo Anch'io? Abbiamo deciso di far partecipare gli ascoltatori allo stesso progetto che praticamente me l'ho fissato io, decidere di vendere un oggetto, liberarsi di qualcosa e di farlo in che modo? Raccontando la storia di quell'oggetto. Gli avevamo chiesto di mandarci anche un desiderio che volevano realizzare. Alla fine del concorso di Vendo Anch'io, cioè sabato a Riva del Garda, i 5 finalisti saranno lì sul palco, ci sarà una giuria che decreterà il vincitore, ma soprattutto i loro 5 oggetti saranno presenti e verranno messi all'asta. Il vincitore del concorso riceverà i soldi in denaro di questa asta per realizzare il suo desiderio. Sono arrivati qualcosa tipo 83 o 84 racconti, nessuno di noi se l'aspettava, ma soprattutto nessuno di noi sapeva poi da dove cominciare per leggerli. Li abbiamo letti tutti, li abbiamo letti io, Laura Faggin e Tiziano Bonini. È sempre difficile chiaramente mettersi d'accordo, sembrava di stare a Cannes, ma come ti permetti? Ma cosa ne sai? Non capisci niente? Alla fine abbiamo tirato fuori i 5 racconti finalisti. Allora, i finalisti non lo sanno ancora, lo sanno in questo momento, io lo sto dicendo, Laura Faggin sta mandando loro la mail per avvisarli che sabato saranno a Riva del Garda, o meglio, devono essere a Riva del Garda, appuntamento con loro alle 20, perché alle 22 in Piazza delle Erbe si comincia a vendere e a raccontare. I finalisti sono Isabel Cordova Gallo, vive a Torino, vende una valigia, il suo desiderio è un viaggio in Ecuador insieme alla sua famiglia per trovare i suoi genitori. Nicola Scarpelli, di Venezia, vende una chitarra elettrica Yamaha, il suo desiderio è un biglietto di sola andata per Beirut. Massimo Fontana, di Como, l'oggetto che vende è un kit di rafforzamento per arti superiori, desiderio un corso per elicotterista. Simona Fabbri, di Ravenna, l'oggetto che vende è un anello con brillante, il desiderio è andare a New York. E l'ultimo dei finalisti del concorso Vendo Anch'io è Emanuele Vicentini, di Ferrara, desiderio corso di portoghese in Brasile, a San Paolo. L'oggetto che vende è una borsa in tela e materiale tecnico. Questi sono i 5 finalisti che saranno a Riva del Garda sabato prossimo, 19 di giugno alle 22. Venite a vederli e a sentirli, si racconta e si vende. Io saluto tutti, grazie a Rudy Cantadori, a Fabio, grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi. Io sono qui, voi siete lì, mi raccomando, i 5 finalisti vi aspetto a Riva del Garda. Voi intanto vendete la vostra auto e venite a Riva del Garda in treno, che alla fine un'auto è solo un'auto e Riva è sempre Riva. Love, love, love, wherever you get it.